Dico, dico, dica, è de rosa, de pensamento, parol, parol, parol, che siamo rosa, di assalenti, di assalenti. Pensamento, pensamento, pensamento.